Totto numero 30, Andrea Agnelli annuncia sorprese sulle magliette del prossimo anno. Buona giornata dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. È il giorno delle amministrative, attesi per le 15 primi risultati di questo importante appuntamento elettorale. Altri due importanti appuntamenti elettorali, lo sapete, quelli in Francia e in Grecia ieri, che stanno intanto agitando le diplomazie europee, come sentiremo fra pochissimo. Prima però andiamo a Genova per un aggiornamento su quanto accaduto questa mattina, gli spari contro il dirigente dell'Ansaldo. In diretta con noi da Genova, Andrea Ferri. Sì, buongiorno dal pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Roberto Aldinolfi, 59 anni, è uscito dalla sala operatoria e ora viene sottoposto a terapia iperbarica. Il quadro clinico è soddisfacente, fanno sapere alla direzione sanitaria. Il proiettile non ha provocato lesioni gravi. Veniamo alle indagini. Pur mancando ancora una rivendicazione, si rafforza con il passare delle ore la pista dell'eversione. In questo senso l'agguato di stamana avrebbe un'alta valenza simbolica. Aldinolfi è amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, cioè un alto dirigente del gruppo che fa capo a Finmeccanica, a sua volta al centro di un processo di riorganizzazione tra cessioni e ridimensionamenti produttivi in un clima chiaramente di tensioni sindacali. Proprio in queste ore è in programma il consiglio di amministrazione di Ansaldo SPS, una delle aziende invece più a rischio all'interno del gruppo. E c'è un'altra coincidenza a suo modo inquietante: oggi a Genova, come dicevate, da studio si vota per eleggere il nuovo sindaco. Ascoltiamo il vice sindaco Paolo Pissarello, avvicinato poco fa al pronto soccorso. Ci sono alcuni fatti, come le modalità, la giornata, ecco, che possono riportarci un po'. Adesso penso che bisognerà riflettere e certamente se queste fossero le letture, bisogna che Genova sappia ritrovare la sua forza di sempre, quella di saper reagire in senso forte e democratico. Quindi però adesso aspettiamo anche quello che saranno un po' le indagini, il lavoro della magistratura. Andrea Ferro, gli investigatori parlano di pista anarchica. Ma in realtà questa prima voce è stata successivamente smentita. Si faceva riferimento ad un documento circolato via web nelle scorse settimane. In realtà si fa più riferimento ad una, al momento chiaramente non identificata, però organizzazione eversiva che avrebbe scelto, come dicevo, sempre seguendo questa ipotesi, la figura di Aldinolfi come figura simbolica di un mondo produttivo, di un'azienda dilaniata negli ultimi tempi da forti tensioni sindacali, ed è un passato, un fantasma del passato, che, come sentivate anche dalle parole del vice sindaco di Genova, si sta riproponendo. Questa, come si ricorderà, è una delle città dove sono sostanzialmente nate le Brigate Rosse, certo, 35-40 anni fa. Però non ci sono riscontri oggettivi al momento. Grazie ad Andrea Ferro da Genova, naturalmente vi terremo aggiornati su questa notizia. Ora invece andiamo alle borse, che dopo un avvio decisamente negativo tornano a salire. In diretta con noi Deborah Rosciani. Sì, buongiorno. La piazza più volatile della mattinata è stata in assoluto Piazza Affari, partita con il calo più forte, meno 2,4%, è risalita la china per Milano e adesso il FTSE MIB guadagna lo 0,70%, ma la situazione è migliorata anche sulle altre piazze. Parigi meno 0,15 dopo le presidenziali, Francoforte meno 0,8, oggi è chiuso Londra. La Spagna è in calo di circa un punto. Per quello che riguarda invece la Grecia, ancora subisce il contraccolpo pesantissimo dei risultati elettorali, oltre 6 punti di ribasso per Atene, che era partita con un calo del 7,6%, quindi il miglioramento assolutamente marginale. Il mercato obbligazionario e la reazione al nuovo disegno politico che si è manifestato appunto nelle ultime ore con i risultati francesi e greco, il differenziale di rendimento fra i titoli italiani e tedesco, lo spread, è arrivato di nuovo a 400 punti base questa mattina, adesso è ridisceso a 387, ma molto interessante è stata la reazione sul mercato obbligazionario francese, perché il rendimento dell'OAT, il titolo decennale a 10 anni, è ai minimi da inizio marzo, è sceso al 2,78% con lo spread con il titolo decennale tedesco che è a 124 punti base, per cui nessuna reazione di preoccupazione preoccupazione da questo punto di vista rispetto alla vittoria appunto del socialista Hollande. L'euro sul dollaro è sceso a 1,2955 per risalire adesso di nuovo a 1,3027. Direi che per ora è tutto. Grazie a Deborah Rosciani. Ecco, sentivamo delle inquietudini sui mercati per i due appuntamenti elettorali europei. Partiamo allora dalla Grecia, dove alle 14, fra poco dunque, alle 14 ora italiana, Antonis Samaras riceverà l'incarico di formare il nuovo governo. Ci colleghiamo con il collega del Sole 24 Ore ad Atene, Vittorio D'Aroldo. Vittorio? Sì, esattamente, i giornalisti stanno appunto facendo l'appostamento davanti al palazzo presidenziale per attendere qualche dichiarazione di Samaras, che entrerà e riceverà l'incarico. Incarico che durerà solo 3 giorni, perché la legislazione greca prevede che appunto le consultazioni possono durare solo 3 giorni, dopodiché passerà al secondo partito, cioè Siriza, della sinistra alternativa, e poi al terzo. Dopo i 9 giorni si va al voto se non c'è una nuova maggioranza. Samaras naturalmente ha detto che parlerà con tutti eccetto i neonazisti di Alba Dorata, che sono entrati per la prima volta con il 7% in Parlamento. La situazione della popolazione è veramente varia da uno stato di euforia a forte preoccupazione. La borsa ha perso l'8% e la Bank of National Greek ha perso il 20%, la banca maggiore. C'è Marina che vende a un mercato qui vicino, il vecchio mercato di Atene, ha detto che aveva sempre votato Nuova Democrazia, ma stavolta ha votato i piccoli partiti. Lambros, che è un piccolo giornalista che purtroppo ha perso il lavoro ultimamente, dice che la Grecia, le persone, diciamo, hanno preferito rischiare il fallimento che continuare a fare sacrifici, e in qualche modo hanno voluto colpire i due grandi partiti che hanno portato il paese a questo risultato. La situazione quindi è molto fluida. Grazie a Vittorio D'Arold da Atene. E noi ci spostiamo da Atene a Parigi, perché in Francia François Hollande stamattina ha già incontrato i suoi più stretti collaboratori per fare il punto sul lavoro che lo aspetta. Allora, da Parigi il nostro inviato, l'inviato di Radio 24, Sergio Nava. Sergio? Sì, buongiorno da Parigi. Siamo qui in una Parigi ancora in festa, risvegliatasi dopo la sbornia. I titoli dei giornali sono assolutamente inequivocabili, potremmo dire: grazie popolo di Francia, titola Le Monde, Le Parisienne, la vittoria di François Hollande, Libération, normale, quasi a sottolineare lo stacco rispetto all'epoca Sarkozy, Le Figaro, François Hollande presidente, i risultati definitivi sono del 51,62% per François Hollande, 48,38% per Nicolas Sarkozy, quindi come potete vedere è veramente ridotto lo scarto. Come dicevate, prima riunione di lavoro oggi e primo viaggio sarà a Berlino per François Hollande, questo è già stato annunciato. E siamo qui con Frank-Paul Weber, che è un giornalista, già corrispondente a Roma del quotidiano La Tribune. Buon pomeriggio, Frank-Paul. Buon pomeriggio a voi. Frank-Paul, quanto è stata storica per la Francia la vittoria di ieri di François Hollande? Diciamo la prima volta nella Quinta Repubblica francese, che esiste dagli anni 60, che un socialista viene eletto Presidente della Repubblica, il primo da François Mitterrand, che era un po' l'eccezione in 81, e dunque è la conferma che la Francia è capace di fare questa alternanza tra centrodestra e centrosinistra. Frank-Paul, giovani e giustizia sono state le priorità che François Hollande ha annunciato ieri nel discorso, diciamo, di investitura ufficiale. Cosa può significare nel concreto? Diciamo, giustizia Hollande mette soprattutto un impatto sugli effetti della crisi, che lui ha fatto la sua campagna anche per dire che devono essere ripartiti in modo migliore tra diciamo i cosiddetti ricchi, i cosiddetti poveri, e che non sono magari i ricchi, non vengono aiutati dal fisco nel mezzo della crisi. Questo nel senso, diciamo, della giustizia, perché c'è stata una soprapresenza Sarkozy molto dibattita e controversa su questo. Sui giovani, lui ha questo contratto di generazione che anche su, ad esempio, su il lavoro, eccetera, dove si cerca di dare prospettiva ai giovani, anche se non si sa esattamente come farà. Grazie, grazie a Sergio Nava da Parigi, grazie al giornalista francese che ha commentato con noi l'avvenimento di ieri. Noi andiamo invece a questa volta a Bruxelles, perché la collaborazione sarà buona anche con François Hollande, lo ha detto il portavoce del governo tedesco Stefan Seiber questa mattina a Berlino, commentando i risultati elettorali della Francia, due appuntamenti, quello francese e quello greco, che agitano le diplomazie europee. Da Bruxelles, Beda Romano, buongiorno Beda. Buongiorno. Allora, Bruxelles si risveglia e commenta questi due importanti risultati arrivati da Atene e Parigi. Sì, da quanto riguarda Parigi, credo che la Commissione sia abbastanza tranquilla. Si aspetta evidentemente che il nuovo presidente socialista tenti in un modo o nell'altro di riorientare la politica economica dell'Europa, sostiene molto l'idea di rivedere almeno in parte l'austerità e il rigore sui conti pubblici, dando maggiore enfasi alla crescita economica. Un aspetto che andrà seguito in particolare è la ratifica del Fiscal Compact, di questo trattato intergovernativo di disciplina dei conti pubblici. Hollande più volte nelle ultime settimane ha spiegato di volerlo modificare. Lì bisognerà cercare di trovare un compromesso con la Germania e con gli altri paesi. Non credo francamente che il nuovo Presidente della Repubblica in Francia voglia trasformare radicalmente il nuovo trattato, ma evidentemente bisognerà trovare un accordo per cercare di venirgli incontro. Per quanto riguarda la Grecia, invece, la Commissione europea si aspetta che la Grecia in qualche modo rispetti gli impegni presi dal precedente governo? Evidentemente sì, evidentemente la Commissione, e lo ha ripetuto anche oggi, si aspetta che i partiti e il nuovo governo rispetti gli impegni. Il problema è che bisogna capire prima di tutto se il nuovo governo sarà un nuovo governo formato dai partiti che hanno sottoscritto il secondo piano di aiuti. E questo ancora non è chiaro, perché una maggioranza di greci ha votato per dei partiti contrari alla cura di austerità e di riforme economiche che il paese ha firmato con i suoi partner. Ecco, proprio in questi, c'è molta incertezza. Proprio in questi minuti vediamo dalle televisioni che sta parlando la Merkel, sta dicendo è importante proseguire sulla via delle riforme per quanto riguarda proprio il voto greco. Con Hollande lavoreremo volentieri. Si valuta la pista politica per l'attentato al dirigente dell'Ansaldo a Genova. Due uomini in moto gli hanno sparato ad una gamba. Il voto in Francia e Grecia, giù le borse, poi si riprendono. La Commissione europea si aspetta che Atene rispetti gli impegni presi dal precedente governo. E ripartiamo dai commenti al voto greco e francese. Serve una svolta in Europa che, senza abbandonare il rigore, deve con urgenza attuare misure per la crescita. Ne ha convinto Mario Monti, che all'indomani della giornata elettorale ha contattato direttamente il neoeletto presidente francese Hollande, ma anche la cancelliera tedesca Angela Merkel, il premier britannico David Cameron e il presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy. Per Pierluigi Bersani, quella delle elezioni di Hollande è una vittoria che può essere un passo determinante per invertire il ciclo disastroso dei governi delle destre. Una Francia più vicina all'interesse italiano, secondo l'ex ministro PDL Franco Frattini, quella di Hollande. Sentiamo il leader di Sinistra, Ecologia e Libertà, Nichi Vendola, al microfono di Katia Caramelli. Credo che questo voto globalmente rappresenti una bocciatura secca, forte, formidabile delle politiche europee segnate dall'egemonia dei tecnocrati e dalle ricette ultra fallimentari del liberismo. C'è una sinistra che critica l'Europa, l'Europa dell'austerità, l'Europa della povertà come risposta alla crisi, e quella sinistra che critica quell'Europa, che alza la bandiera di una nuova Europa, alza, diciamo così, l'asticella della difesa dei diritti sociali e del welfare, quella sinistra vince. La sinistra che ha invece interpretato il compito di fare le politiche sociali della destra, come è accaduto al PASOK in Grecia, viene letteralmente travolta. Ecco, attenzione, la sinistra ha il compito di salvare e rilanciare il progetto di Unione Europea, ma lo può fare non difendendo una moneta, difendendo un'idea di civiltà. Dicevamo di Angela Merkel, la cancelliera tedesca Angela Merkel, che sta parlando proprio in diretta. Ebbene, poco fa ha detto che il neopresidente francese François Hollande sarà accolto a braccia aperte in Germania. Queste le prime dichiarazioni della Merkel. E oggi è il giorno della verità anche per le elezioni di casa nostra. Alle 15 urne chiuse per le amministrative. Hanno riaperto alle 7 di questa mattina i seggi per le elezioni amministrative. Più di 9 milioni di italiani sono chiamati ad eleggere i sindaci e i consiglieri comunali di quasi 1000 tra città e piccoli centri. Le urne rimarranno aperte fino alle 15. Alle 22 di ieri, secondo il Viminale, avevano votato il 49,66% degli aventi diritto, il 6,2% in meno rispetto alle precedenti amministrative. I test più importanti a Genova, Parma, Verona e Palermo. Ieri sera, in una sezione del capoluogo siciliano, la Digos ha accertato la mancanza di 27 schede, dopo che a un'elettrice era stata data una scheda già votata. In Sardegna, intanto, è stato raggiunto il quorum per la validità del referendum anticasta per l'abolizione delle 4 nuove province nate negli ultimi anni. Gli eventuali ballottaggi per l'elezione dei sindaci si svolgeranno domenica 20 e lunedì 21 maggio. Lucio Bondì, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E oggi pomeriggio Radio 24 dedicherà ampio spazio alle elezioni amministrative, due gli speciali condotti da Daniele Biacchessi, uno dalle 15 alle 17 e l'altro stasera dalle 21 alle 24. Una buona notizia arriva questa mattina dal prezzo della benzina. In previsione dell'estate arrivano buone notizie per gli automobilisti. Stamattina c'è stato un nuovo round di diminuzione dei prezzi sulla rete carburanti, a fare da apripista Eni, che ha costretto poi tutti gli altri a seguire. Eni ha ritoccato al ribasso il prezzo della benzina di 2,5 centesimi, del diesel di un centesimo e del GPL di 2 centesimi. Scendono anche Shell assieme a Total Erg, come pure IP, Kuwait e Tamoil. Ieri il via libera alla diminuzione dei prezzi era arrivato direttamente dall'Unione Petrolifera, visti i cali del prezzo del petrolio. Qualche movimento al ribasso sui listini c'era già stato la settimana scorsa, la conferma è arrivata però oggi, anche se ancora i cali prospettati non sono dell'entità denunciata da Nomisma, l'istituto di ricerca, che ha parlato di un surplus sul prezzo della verde di circa 8 centesimi al litro, intascato dalle compagnie petrolifere. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24. E siamo al calcio, è il 28esimo, è il 30esimo, insomma festeggiano gli juventini, ma non si sa bene che numero di scudetto stiano festeggiando. E allora Dario Ceccarelli, insomma, 28-30. Ma vai a saperlo. Cominciamo a dire che oggi per la Juventus è lo scudetto dell'orgoglio ritrovato, come ha detto il presidente Andrea Agnelli commentando questa stagione straordinaria della sua squadra all'indomani del trionfo di Trieste. Per gli uomini di Conte ufficialmente il 28esimo scudetto, un titolo che è arrivato dopo un'attesa durata 6 anni, con in mezzo il purgatorio, l'inferno della Bilac e la cancellazione di questi due titoli. Ma proprio su questi due titoli cancellati, come hai detto tu, si riaccendono le polemiche. Sentiamo Andrea Agnelli. Sono sicuramente 30 sul campo gli scudetti che noi abbiamo vinto. Se guardo anche quelle che sono le attività giudiziarie nel 2004-2005, da Napoli hanno detto che il campionato non fu alterato. Il 2005-2006 non è neanche stato investigato, quindi direi che sul campo quantomeno nessuno ce le toglie, sono sicuramente 30 scudetti. Sulla maglietta credo che i nostri tifosi potranno avere delle belle sorprese. Come avete sentito, è già polemica al vetriolo, una polemica di cui non è che ne sentissimo molto così il bisogno, perché insomma tutto sommato sarebbe anche bene che nel giorno del trionfo prevalga la gioia sul rancore, però e poi anche perché la pagina di Calciopoli, comunque la si rigiri, non è stata una bella pagina e forse sarebbe anche il caso di metterci una pietra sopra. Purtroppo in Italia bisogna sempre parlare del passato e mai del futuro, anche quando c'è il calcio, anzi soprattutto. Certo, ma cosa è successo ieri sera? Ma ieri sera è successo di tutto ed è veramente stata una serata emozionante. La Juventus subito in vantaggio a Trieste col Cagliari, attendeva con ansia le notizie del derby. E che notizie, perché il Milan, travolto da un tris di Milito e un gol di Maicona, ha dovuto arrendersi nonostante la doppietta di Ibrahimovic. Ma si sono viste cose incredibili, coi tifosi juventini, che come noto non amano molto l'Inter, che esultavano ai gol nerazzurri perché consegnavano alla Juventus lo scudetto tricolore. Ecco, che è stato sicuramente uno scudetto meritato, perché la Juventus non ha mai perso una volta durante tutto il campionato ed è stata la squadra con maggiore continuità. E l'allenatore Conte è stato un direttore d'orchestra molto valido, un direttore che ha fatto vincere l'orchestra e non i tenori. Il Milan invece finisce all'inferno. Grazie a Dario Ceccarelli, che ritroveremo tra l'altro fra pochissimo con il Giro d'Italia. Questo GR24 si ferma qui, in regia Roberto Scaltritti. Un saluto da Maria Piera Ceci. GR24, il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.